Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, certificata in Italia la recessione tecnica, non è che avessimo molti dubbi, nel senso che anche oggi in seconda lettura il PIL italiano dell'ultimo trimestre a disposizione è un PIL che manda il paese, come già altri paesi europei, in recessione tecnica, meno 0,5% nel terzo trimestre, meno 0,9% il dato sull'anno. Che cosa però oggi è nuovo, visto che questa è una conferma, una seconda lettura? Beh, il dato sulla produzione industriale, e non è un bel dato, nel senso che è il peggiore a livello europeo, quanto soprattutto alla produzione industriale, ma il nostro PIL è il peggiore a livello europeo come dato del terzo trimestre. La produzione industriale fa un dato che è il peggiore dal dicembre del 1996, cioè 12 anni fa, e che appunto non l'avremmo voluto vedere. Meno 7% corretto per giugno lavorativi il dato sulla produzione industriale a ottobre rispetto all'ottobre del 2007, tra l'altro nei primi 10 mesi del 2008 a questo punto il calo del 3%. Chiaro, pesa moltissimo il settore auto, che va male, malissimo, ma pesano moltissimo anche alcuni settori che invece sull'export avevano tenuto. Penso al tessile, all'abbigliamento, al calzaturiero. Va bene, o meglio, perde molto meno della media il settore del mobilio arredo, altro settore classico del Made in Italy. Ne parleremo in apertura. Ancora per quello che riguarda l'Italia, oggi vari incontri per il partner straniero, di nuovo un incontro Spinetta con Aninno. Da quello che capiamo, come indiscrezioni, quindi vanno prese con le pinze, CAI è orientata ad avere Air France come partner. Il governo invece spesso ha detto, l'ho detto il Presidente del Consiglio Berlusconi, che preferirebbe Lufthansa, quello che potrebbe scaturire un accordo per cui Lufthansa prende degli slot a Malpensa. In questo modo Malpensa resta un hub, e anche la Lega all'interno del governo, che di Malpensa ha sempre fatto una difesa assolutamente non nascosta, sarebbe contenta, e a quel punto l'alleanza resterà tra l'Italia e Air France. Sarebbero infatti, da quello che ci risulta, molto alte le penali da pagare se l'Italia dovesse rompere l'accordo SkyTeam da un lato e poi rimodulare tutti gli accordi di code sharing con Lufthansa. Staremo a vedere le sorprese. All'Italia ci ha abituato alle sorprese. Nel frattempo anche l'ENAC oggi ha raccontato che cosa capiterà sotto Natale, quali voli verranno confermati e garantiti nel periodo delle festività, e poi parleremo degli Stati Uniti. Perché? Perché già questa mattina il nostro GR vi ha ricordato dell'accordo per salvare il settore auto americano, 3 milioni di posti di lavoro complessivi, l'indotto è accordo da 15 miliardi di dollari. In realtà la cosa più interessante di questo accordo, che potrebbe essere anche un modello per altri aiuti di Stato, magari anche in Europa, è la figura dello zar, come lo chiamano in America, lo zar dell'auto, l'uomo che controllerà come le varie case automobilistiche, e quindi Chrysler, Ford e General Motors, utilizzeranno questi 15 miliardi, e se non sarà contento, se queste case non utilizzano i soldi come richiesto, potrà anche bloccare gli aiuti. Dovrebbe essere Paul Volcker, l'ex presidente della Federal Reserve, nonché consulente economico di Obama, uno dei padri, diciamo, di molti economisti che fanno parte della squadra della Casa Bianca, lo zar dell'auto. Anche di questo parleremo. 349-238-6666 per i vostri sms. E adesso le notizie in breve. A Ancora il petrolio che con questi chiari di luna rallenta, $43.11 dopo l'aumento delle scorte della benzina. C'è un'altra notizia che vi abbiamo già ricordato, che assolutamente la dice lunga sul segno dei tempi, ne parleremo anche nel corso del primo approfondimento. La Cina è vicina, come si diceva una volta, ed è vicina anche alla crisi, perché chi riteneva che la Cina potesse essere una specie di continente isolato da quello che capitava nel resto del mondo, con tassi di crescita fuori dal comune, oggi si ricrede. La Cina sperava, come ultimo dato disponibile, di avere una crescita dell'export del 15%. Ebbene, ha segnato oggi un meno 2, a sorpresa. Addirittura adesso iniziano le preoccupazioni in Cina per capire come mai. È la prima volta che l'export cinese cala in 7 anni, ma soprattutto a ottobre aveva fatto più 19%. E il mese scorso, a novembre, ha fatto meno 2,2. La cosa incredibile è che le previsioni sbagliano anche i cinesi ogni tanto. Le previsioni degli economisti erano di un più 15%. Eh sì, anche la Cina soffre la crisi, nessuno ne è immune. Dicevamo, petrolio a $43 al barile, e Rio Tinto, praticamente che è gigante australiano nel settore delle commodities, taglierà 14.000 posti di lavoro e ridurrà le spese di 5 miliardi a causa della crisi che fa nella domanda di metallo. Tra l'altro ricordo che Rio Tinto aveva cercato di acquisire, quello sì, il gigante australiano BHP Billion pochi mesi fa, poi aveva abbandonato l'operazione. Erano mesi in cui ancora i grandi colossi si permettevano operazioni di questo genere. Adesso è costretta a tagliare 14.000 posti di lavoro. Ancora sul pacchetto clima, il ministro degli esteri Frattini ha detto: ci sono passi in avanti verso un compromesso, ma l'Italia non è ancora soddisfatta. Nessuno di noi vuole scassare gli obiettivi di fondo del pacchetto clima europeo, ma le sue parti, le sue varie componenti devono essere negoziabili, non ci possono essere parti non negoziabili. Intanto oggi, secondo il Climate Change Performance Index del German Watch, l'Italia è al 44esimo posto su 57 paesi, quindi molto in basso nella classifica, quanto a interventi per tagliare le emissioni di gas nocivi. Tra l'altro il rapporto valuta la qualità degli interventi di vari paesi, si piazza nei primi tre posti, si piazzano Svezia, Germania e Francia, quarta e quinta a sorpresa ci sono India e Brasile, ultime posizioni per Arabia Saudita, Canada e Stati Uniti, noi appunto siamo nella parte bassa della classifica. E ancora i rendimenti dei Treasury Bond, delle obbligazioni americane. Questa è una cosa incredibile. In sostanza, il timore che la recessione economica possa durare molto più a lungo di quanto pronosticato al momento da molti organismi, quindi possa andare più avanti rispetto a metà del 2009 o fine del 2009, ha fatto scattare in America la corsa ai buoni del tesoro americani, i T-Bond, i Treasury Bond. Ma così tanta è stata la domanda, e sappiamo che più c'è domanda più calano i rendimenti, cioè più c'è domanda più il rendimento che devi offrire può abbassarsi perché c'è molta richiesta. Quello che è accaduto ieri però è stato sensazionale, e cioè venivano collocati 30 miliardi di T-bond americani con scadenza un mese, la domanda era pari a 4 volte l'offerta, per cui è sceso a tal punto il rendimento delle obbligazioni da arrivare a zero. C'è gente che ha preferito, pur di non rischiare altri investimenti, comprarsi delle obbligazioni che non rendono nulla. E addirittura per alcuni minuti il rendimento di queste obbligazioni americane è sceso sotto zero, cioè era un rendimento negativo. È un brutto segnale di sfiducia se si arriva a comprare un'obbligazione che rende nulla, o addirittura in cui si perde qualcosa pur di non rischiare di perdere altro su altri fronti. E va bene, andiamo avanti. Secondo la Spagna, nel 2009 l'andamento delle costruzioni nel paese crollerà ai livelli del 1960. Pensate che nel 2006 in Spagna, l'anno di maggiore euforia nel mercato del mattone spagnolo, erano stati avviati cantieri per 760.000 abitazioni. E adesso, secondo le stime diffuse oggi, l'anno prossimo ne verranno costruite solo 150.000. Va bene così, si fa per dire. Partiamo con il tema di apertura. Tutti piangono, e chiaramente anche noi. Il dato sulla produzione industriale è il peggiore dal 96, da 12 anni a questa parte. Preoccupa vedere che vanno male anche settori che sull'export fino ad ora avevano tenuto, mentre il dato confermato oggi sul PIL italiano, meno 0,9% su base annua e meno 0,5% il trimestre, ha di brutto che è il peggiore della media, è peggiore della media europea, è peggiore dei paesi nostri concorrenti, perché la Francia fa meno 0,1%, meno 0,1% fanno gli Stati Uniti, meno 0,5% fa il Regno Unito e anche la Germania, noi facciamo chiaramente meno 0,9%, quindi siamo fanalino di coda. Rapidamente adesso la produzione industriale, il nostro primo tema. Ringrazio per averci raggiunto al microfono, da un lato il professor Renzo Rullani, docente di strategia d'impresa alla Ca' Foscari di Venezia. Buonasera professore. Buonasera. E grazie anche a Umberto Bertelè, che è presidente del MIP, la Business School del Politecnico di Milano, anche lui docente di strategia d'impresa. Buonasera professor Bertelè. Buonasera. I dati, i numeri, prima di tutto diamoli allora questi numeri. Insieme alla conferma della recessione, che in Italia risulta in questo momento più marcata rispetto a Stati Uniti e altri grandi paesi europei, l'Istat ha fornito oggi anche alcune indicazioni sulle cause della crisi. A provocare l'arretramento del nostro PIL nel terzo trimestre del 2008 sono stati la discesa dei consumi privati, la frenata dell'export e la decisa diminuzione degli investimenti delle imprese. Unica voce in crescita, la spesa della pubblica amministrazione, salita dell'1,1% rispetto al 2007. Tra i settori produttivi, tiene l'agricoltura con un valore aggiunto cresciuto del 4,5% rispetto all'anno prima. Arretrano viceversa i servizi e l'edilizia, ma soprattutto l'industria manifatturiera, il cui valore aggiunto è sceso tra giugno e settembre scorsi dell'1,6% rispetto ai tre mesi precedenti e del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2007. Ulteriore conferma del momento difficile della nostra industria è arrivato oggi anche il dato sulla produzione di ottobre, che evidenzia il sesto calo mensile consecutivo, nonché il peggiore da 12 anni a questa parte. Particolarmente colpita l'industria automobilistica, che ha archiviato ottobre con un meno 34% rispetto all'anno prima. Brutti segnali sono giunti anche dalla meccanica, colonna portante della nostra industria manifatturiera, che ha accusato un calo produttivo del 9%. Tra gli altri classici settori del Made in Italy si sono salvate le industrie del mobile, più 1,1%, le uniche ad aver visto il segno più. La crisi si è invece fatta sentire nelle fabbriche di scarpe e articoli in pelle, meno 13%, e nel tessile e abbigliamento, meno 7,4%. Non si è salvata neppure l'elettronica, che ha chiuso ottobre accusando una flessione produttiva vicina all'11%. Sono infine riuscite a contenere almeno in parte le perdite le industrie chimiche, meno 2,8%, e gli stabilimenti siderurgici, meno 4%. Allora, molti messaggi già arrivati. Allora, chiedo venia nel leggere, evidentemente ho fatto un errore, chiaramente era BHP a voler acquistare Rio Tinto e non viceversa. E tra l'altro era arrivato, ha abbandonato la gara BHP Billion. Rio Tinto oggi ha annunciato 14.000 posti di lavoro. Se si è capito il contrario, chiedo scusa. Ancora molti di voi sorpresi da questa cosa che abbiamo raccontato, ossia che ieri l'asta per le obbligazioni americane ha avuto una tale richiesta, lo dico anche a Bertelè Rullani così capiamo il clima, che i treasury bond sono andati a rendimento zero, cioè c'è chi ha preferito comprare obbligazioni che rendono nulla, addirittura sono scesi in alcuni momenti sotto zero, non capitava da mai. Tale è il timore che la crisi possa andare avanti oltre le previsioni. Poi torneremo anche sulla Cina, perché pure la Cina è così vicina a noi che sta subendo anche lei la crisi dell'economia e della finanza. Ma vorrei un primo commento su una domanda molto semplice, spero non troppo stupida. Vista la situazione di gelata complessiva, che addirittura le obbligazioni americane vanno sotto zero come rendimento, ha senso il tema che ho scelto per questa puntata, cioè far parlare voi due e spiegare alle imprese italiane cosa devono fare, oppure tale è la gelata, tale è l'ondata di piena che il giunco non deve far altro che chinarsi, aspettare che passi, tanto la ristrutturazione negli anni passati le nostre imprese l'hanno già fatta. Rullani. Credo che ci siano due problemi che si sovrappongono ma che vanno tenuti distinti. Uno è assorbire in modo flessibile senza farci troppo male quella che è una fluttuazione, sebbene importante, ma che comunque dopo un certo tempo passerà, insomma, come la strategia del giunco di cui diceva lei. Ma l'altro problema che noi abbiamo è che non basta essere flessibili, perché quando torneremo in piedi dopo aver fatto passare la tempesta, che cosa scopriremo? Che siamo mal posizionati, perché questa tempesta ci ha preso a metà di un processo di riposizionamento sul mercato che noi dobbiamo comunque fare e non possiamo abbandonarlo a metà solo perché c'è da adattarsi alla tempesta. Ecco, quindi il nostro vero problema è quello di fare due strategie che in certi campi sono contraddittorie ma in certi altri no. Una è di adattarsi e quindi stringere la cinghia e cercare di non morire, non farci troppo male nel reggere i venti della recessione, ma l'altra è continuare a innovare almeno quella parte del nostro sistema che avrà la capacità, almeno a livello di idee, di progetti, in modo che appena ci sarà la possibilità noi possiamo ripartire sull'innovazione. E la crisi, poi non dimentichiamoci che è anche un grande fattore di cambiamento. Tutte le grandi crisi hanno portato alla fine della crisi non il sistema della posizione precedente, ma un cambiamento di paradigma. Cioè il paradigma, il modo con cui la gente consuma, ragiona, organizza, investe, muta perché lo scossone della crisi mette in pericolo e destabilizza le situazioni precedenti, no? Allora noi dobbiamo prepararci a questo cambiamento di paradigma. Quindi lei dice sì, vabbè, da un lato è difficile andare in controtendenza, è meglio aspettare, non farsi troppo male, però attenzione che noi eravamo a metà come modello e struttura produttiva di un processo di trasformazione che aveva visto andare molto bene, lo ricordo, nel 2007 anche inizio 2008 il nostro export, tant'è che poi proprio dalle esportazioni arrivano dei dati anche un po' in controtendenza a settembre, quindi manca ottobre, ma a settembre alcuni settori come il tessile e l'abbigliamento, il cuoio e i prodotti in cuoio, i metalli e i prodotti in metallo, gli apparecchi di precisione, la meccanica, hanno segnato tutti incrementi nelle esportazioni rispetto all'anno prima, un più 4% in media, addirittura i metalli più 14%. Poi insomma, adesso è arrivato il dato sulla produzione industriale che è una gelata. Comunque, professor Bertelè, anche per la stessa domanda, ha senso porsi la domanda che fare oppure meglio solo stare a aspettare cercando di farsi il meno male possibile? Io penso che sia una domanda sicuramente con senso. Volevo fare due osservazioni. La prima osservazione è proprio relativa a questi contrasti nei dati dell'export, è che c'è stato per certi versi una fermata, non dico quasi improvvisa perché era attesa, ma molto molto rapida, che ha invertito i numeri, e vediamo che negli ultimi due mesi e mezzo, tantissime situazioni stanno venendo alla luce non positive e quindi con riflessi che poi non necessariamente sono immediati ma che vedremo progressivamente. L'osservazione più di struttura però era questo. Sono d'accordo con Costi Rullani prima sul fatto che siamo a metà trasformazione. Vorrei farne anche un discorso di comparti, sottocomparti, aree di business. Cioè abbiamo certi pezzi dell'economia dove in realtà stavamo venendone fuori molto bene, dove stavamo migliorando la nostra posizione a livello mondiale. Abbiamo dei pezzi dell'economia dove probabilmente sono sopravvissute agli scossoni degli anni passati alcune realtà che sono quelle che sono maggiormente a rischio in questa situazione. Cioè di solito questi periodi di grande crisi tendono a punire i deboli rispetto ai forti, e quando parlo di deboli e forti parlo sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista finanziario. Quindi io quello che temo è che un pezzettino ulteriore del sistema che era sopravvissuto agli anni di crisi precedente non abbia delle grandissime speranze, per carità. Dovrà cercare. Possiamo di fare nomi e cognomi, Bertelè, almeno come settore? Io non, guardi, le posso fare, se noi andiamo a vedere quali sono i settori viceversa che hanno tirato di più, vediamo che c'era una certa serie di settori che erano quelli legati al mondo della meccanica e dell'impiantistica, quelli legati alla tessile, abbigliamento, alla moda in generale, legati all'arredo e al design e all'alimentare, dove noi eravamo riusciti veramente, chiaramente il discorso poi andrebbe fatto in maniera più sottile, eravamo riusciti a crescere e finalmente ad avere prodotti di qualità con situazioni in cui peggioravano talora i numeri ma miglioravano nettamente i valori del nostro export. Ecco, in questi ambiti qui io credo che il problema in questo momento sia di tenere i denti stretti, di cercare di far saltare noi i concorrenti mondiali più deboli, e ce ne sono vari di concorrenti più deboli, per questo è anche importante che non manchino risorse finanziarie al sistema, nel senso che occorre il coraggio degli imprenditori e occorre che in certi momenti si sia anche sorretti da una finanza che non ci mette agli angoli. Allora, la Cina, molti di voi ci chiedono di questa Cina che cosa è successo. Beh, è successo che nonostante il 2008 si chiuderà con ogni probabilità con un più 9% in Cina di crescita economica, e il 2009 un più 7%, che in Cina significa contrazione, avercela noi questa contrazione, sono 70.000, secondo i media cinesi, quindi mi ha preso col beneficio del dubbio, 70.000 le aziende fallite nei primi sei mesi del 2008. L'epicentro della crisi è Guangdong, che è la zona a maggiore industrializzazione della Cina, nella parte sud. E ancora, per la prima volta, veramente qui stiamo ragionando quasi di segnali storici, sociologici più che economici, c'è un controesodo in Cina dalle città verso le campagne, dopo diciamo 20 anni almeno interrotti di esodo milionario di persone dalla campagna verso la città. Quasi 3 milioni gli ex contadini che sono rimasti senza lavoro, tant'è che sono tornati a casa per le festività, diciamo, di questo periodo, e molti potrebbero non tornare, sono tornati in campagna, ma potrebbero non tornare in città, addirittura si sta creando uno sconquasso sul mondo nel mercato immobiliare, tant'è che il governo cinese ha varato un piano da 600 miliardi di dollari. Così chiudo la parentesi sulla Cina. Rullani, visto che lei le studia e ne parla spesso, che cosa a questo punto consiglierebbe a quella parte, per usare il linguaggio di Bertelè, insomma, che non rischia di soccombere in questo momento? Perché sono usciti delle produzioni che facevano concorrenza a quelle cinesi, i nostri imprenditori, hanno aumentato il valore aggiunto, sono in un mercato globale con un euro a 1,2997, sono andati all'estero, come fare? Ma io direi innanzitutto che bisogna considerare questi fenomeni di amplificazione in prima in positivo e poi in negativo come normali, nel senso che quando lo sviluppo si innesca non procede mai linearmente, procede sempre a scossoni, quindi in questo momento abbiamo lo scossone negativo, ma poi la Cina ha dei fattori di sviluppo così come l'India eccetera che riprenderanno a agire, quindi io non mi starei tanto a preoccupare del fatto che adesso il mondo si fermi, come spesso capita che la gente che non è pratica di queste cose comincia a pensare adesso non possiamo andare avanti perché tutto si fermerà. In realtà il mondo ripartirà, adesso non sappiamo quando e come, con quanti morti, ma ripartirà, no? E sempre ripartito, lo farà anche questa volta, c'è tutto il meccanismo dei prezzi che lo porta su. Non dimentichiamoci che per esempio il petrolio costa un terzo di quello che costava un anno fa, no? Cioè è tutto un meccanismo che è fatto apposta per oscillare, diciamo. Quello che è veramente importante è che noi oggi cerchiamo di cogliere le qualità nuove che la crisi porta dentro l'economia mondiale. Allora, queste qualità nuove credo che siano due i fari intorno a cui possiamo organizzare una risposta. La prima qualità nuova è quella che riguarda l'atteggiamento dei consumatori. Credo che qui ci sia bisogno, come posso dire, di un pochino di recupero della sobrietà, no? Noi abbiamo avuto un'economia molto dissipativa e anche dal punto di vista, come dire, dei consumi e del consumismo, oggi avvertiamo nelle mani di questa crisi che alla fine molti di questi consumi erano qualcosa di gonfiato. Bisogna tornare un po' alla ricerca di significati più profondi, più durevoli, più duraturi, e quindi in qualche modo anche cercare, dal punto di vista dei produttori, di legare i nostri prodotti a dei significati più rilevanti, no? Cioè, voglio dire, per esempio, nel Made in Italy la moda può essere vissuta in modo effimero, ma può anche essere uno stile di vita, quindi in qualche modo legarsi a qualcosa di più durevole. La casa può diventare uno stile di vita dell'abitare, quindi vendere quest'idea che la casa italiana è qualcosa di diverso dalla casa, dall'abitare generico e standard, no? Quindi cercare la qualità. Io credo che la qualità avrà, dopo la crisi, più ricerca di quella che c'è stata prima. L'altro elemento fondamentale è che tutti questi paesi in via di sviluppo determinano, mettono sotto pressione l'ecologia generale del pianeta. E qui c'è un problema che riaffioreranno, cioè adesso non illudiamoci che la crisi energetica sia passata e che quindi le fonti rinnovabili non sono più un business. Non illudiamoci che non ci sia un problema di recupero, diciamo, dell'equilibrio ecologico generale del nostro sistema, quindi in realtà lì si apriranno degli spazi di innovazione, di mercato nuovi. Ecco. Allora noi che siamo già in qualche modo attrezzati per stare dietro a questi significati che non sono quelli, diciamo, puramente prestazionali, diciamo così, puramente tecnici, sì, della produzione, noi questa qui non lo dobbiamo perdere, perché questo è il nostro riposizionamento. Allora, se ho ben capito, e vedo che molti ascoltatori la seguono, anche Rullani, lei dice, vabbè, da questa crisi nascerà un mondo nuovo, non è detto che sia peggiore. Intanto vedo che in America è arrivato l'ok al salvataggio del piano auto, 15 miliardi di dollari, atteso, ma insomma adesso è ufficiale. L'euro nel frattempo va a 1,30 nei confronti del dollaro, poi parliamo anche di borse che hanno chiuso leggermente positive. Ma lei dice, Rullani, attenzione, si tornerà dei consumi più sobri. Per inciso, come battuta, c'è chi i consumi li ha dovuti sempre tenere sobri, perché anche quando c'era questa grande classe agiata, alcuni non arrivavano a fine mese anche negli anni scorsi. Però, cioè, ma si tornerà a consumi più sobri, a riscoprire alcuni valori, e noi come sistema produttivo dobbiamo infilarci in questo nuovo idem sentire, in questo nuovo modo di vivere la crisi e il post-crisi, quindi offrendo qualità della vita e tutto insieme di quello che fa parte dell'Italian style, e potremmo averne anche qualche vantaggio. Bertelè, anch'io sono dell'idea che questa crisi è devastante, per carità, però che si possa trovare qualche elemento di rinascita, cioè dalle crisi, dalle rivoluzioni, emergono anche forze nuove, non è che emergano solo, diciamo, disgrazie. Secondo lei? Non c'è dubbio che chi indovina come sarà il mondo tra qualche anno uscirà molto molto rafforzato dalla crisi come potenzialità. Ecco, sui due discorsi, Rolando, io farei considerazioni un pochino diverse. Credo che sia importantissimo tutto ciò che riguarda energia, ecologia. Cioè, ci sono valori competitivi forti, quindi primo caso di cui stiamo parlando in questi giorni, automobile. Io penso che veramente l'automobile nel futuro, ma non in futuro lontanissimo, dovrà essere qualcosa di abbastanza diverso da quello attuale, e una serie di case in giro per il mondo ci stanno lavorando seriamente. Vedremo poi se da questo punto di vista anche noi con la nostra Fiat, unita ad altri, da sola, con alleanze, fusa eccetera, sarà capace di essere in gara. Ecco, per quanto riguarda la sobrietà, io credo che ci sia bisogno, soprattutto nei settori più voluttuari, ci sia bisogno di seguire con grande attenzione il mercato, perché noi abbiamo probabilmente un mercato dei paesi occidentali che è destinato a non crescere troppo o in certi casi andare a ridurre i suoi livelli di vita, o perlomeno insomma non a crescerli, e quindi la sobrietà può essere un valore forte. Abbiamo una serie di paesi nuovi che al momento, come giustamente le diceva della Cina, stanno rallentando, potrebbero avere crisi anche politiche forti, se questo però non capiterà potrebbero manifestarsi in questi paesi delle forme di consumismo molto più simili a quelle nostre vecchie che non alla sobrietà di cui parliamo. Quindi credo che ci sia necessità di una grande grande attenzione. Però, ecco, quello che capisco dal vostro ragionamento nel ringraziarvi è la necessità, forse se posso sintetizzare, oltre che di cambiare i modelli produttivi, questo in parte le nostre imprese l'hanno già fatti, prodotto, innovazione di prodotto, innovazione di processo, di drizzare ancora di più le antenne, perché oggettivamente nessuno in questo momento ha capito che mondo nuovo avremo davanti, e sicuramente lo avremo. E come diceva lei, Bertelè, ma ricordava anche Rullani, chi imbroccherà, uso questo termine poco economico, il prossimo scenario, vuoi per i paesi già sviluppati, più sobri, con maggior qualità della vita e con un'attenzione a determinate variabili, tra cui quella ecologista, vuoi paesi invece che vogliono raggiungere un livello di consumo occidentale, chi saprà collocarsi nel nuovo mondo che uscirà da questa crisi, beh, avrà un vantaggio competitivo non da poco. Noi ci auguriamo chiaramente che siano in primo luogo le aziende italiane, aiutate dal sistema bancario e magari aiutate anche da qualche legge, qualche così defiscalizzazione per chi reinveste in ricerca o reinveste in ricapitalizzazione. Grazie a Umberto Bertelè, grazie a Enzo Rullani. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di borsa, di come hanno chiuso le borse, devo dire anche oggi leggermente positive. Zitte zitte, speriamo che questa possa essere una settimana in cui alla fine prevale il segno più rispetto al segno meno, sarebbe già un segnale, scusate il gioco di parole. Molti messaggi che sono arrivati al 349-238-6666 sul tema di apertura, il bruttissimo dato sulla produzione industriale italiana, che tra l'altro segue il dato di ieri dell'INPS sulla cassa integrazione ordinaria dell'industria, più 250%, oggi l'allarme di Guglielmo Epifani che dice già in questo momento la cassa integrazione interessa 350.000 lavoratori, sta arrivando la valanga. Ora non abbiamo neanche il tempo per tirare fuori il gufo oggi, ma insomma proprio vedremo, speriamo di no, sicuramente i dati non lasciano ben sperare. È vero quanto alcuni di voi ricordano che il petrolio costa meno, quindi almeno paghiamo meno il pieno della macchina, paghiamo circa un 25% in meno alla fine, non il calo, non tutto il calo, ma un 25-30% in meno. È vero quanto diceva Rullani, che alcuni di voi riprendono, e cioè che non illudiamoci, quando questa crisi sarà finita e ripartirà l'economia, vi saranno di nuovo le tensioni sulle materie prime. Delle volte non si sa cosa augurarsi, se il petrolio a 130 con l'economia che va bene o il petrolio a 40 con l'economia che va male. È vero anche quanto, e concludo, scrivono alcuni di voi, ma insomma come faremo a reinventarci se qua stiamo chiudendo, scrivono alcuni dal distretto della Piastrella, Sassuolo, Modena e quant'altro. È per questo che occorre tener botta finché non passa l'onda di piena, forse anche con iniziative a favore delle imprese un po' più significative, soldi e conti pubblici permettendo. Comunque adesso la borsa, come sempre con Radio Cori, il Sole 24 Ore, a grande richiesta torna Livia Zancaner. Buonasera Livia. Buonasera. Allora, Banco Popolare, l'effetto Saviotti c'è e si vede, più 11,2% a 5,3 euro, miglior titolo in un listino che ha fatto più 1% a Milano, più 0,7% a Parigi, più 0,5% a Francoforte e meno 0,4% a Londra. L'America sta guadagnando l'1,3%. Banco Popolare. Sì, allora, a premere il titolo è stata la notizia dell'imminente collocamento delle quote del fondo immobiliare, che porterà una plusvalenza lorda di circa 500 milioni di euro. Il lancio del fondo sarà la prima mossa quindi realizzata dal nuovo amministratore delegato Pier Francesco Saviotti, che ha preso il posto di Fabio Innocenzi. Inoltre, secondo le indiscrezioni, allo studio ci sarebbe anche la cessione di asset non strategici da parte del Banco Popolare e l'istituto potrebbe essere tra i primi a chiedere la sottoscrizione del bond convertibile da parte dello Stato, questo sempre secondo indiscrezioni trapelate ieri. E questo per quello che riguarda il titolo Banco Popolare, che molto era sceso in questi giorni, cioè nella parte finale, quando l'accordo con DZ è saltato per l'operazione, sull'operazione Italease, ha recuperato l'11,2, siamo sempre a livelli, insomma, pensate che ancora prima dell'estate il titolo valeva 14-13 euro, adesso siamo sempre a 5 euro, un terzo, però più 11%. Altro titolo molto forte, Italcementi, è tre sedute che continua a crescere, oggi guadagna addirittura il 9,3%. Sì, allora Allora, i tracciamenti in tre sedute ha guadagnato quasi il 18%, allora senza novità dal punto di vista dei fondamentali. Secondo gli operatori, molte società da qui a fine anno saranno oggetto di ricopertura e riposizionamenti, e tra le più gettonate indicano soprattutto quelle del settore costruzioni e quindi anche del comparto cemento. Inoltre, in assenza di notizie negative, spiegano sempre i trader, il recupero che le azioni potranno mostrare da qui alla fine dell'anno è imprevedibile, soprattutto anche per le aziende di medie dimensioni. Basta solo pensare che, sempre un esempio riportato dagli operatori, Danieli è salito del 34,6% da martedì scorso, e Danieli era proprio un titolo in portafoglio di molti hedge fund che operano sulle società di medie dimensioni italiane. Allora, questo per quello che riguarda i tracciamenti, appunto, e alcune ricoperture. Ultimo titolo, poi le informazioni per chi è in viaggio. Anzi, facciamo così, diamo le informazioni per chi è in viaggio, poi parliamo di Fiat, di Pirelli, che oggi bene, più quasi 5% Pirelli, A2A in recupero, Fiat più 2,5, soffre invece oggi UbiBanca, meno 2,7. Nuovo in diretta per parlare di borsa. Allora, Livia Zancanelli, dicevamo di Fiat ma anche di Pirelli. Allora, Fiat ha beneficiato del fatto che martedì notte è stato raggiunto un accordo preliminare che dovrebbe essere approvato oggi, secondo le voci, tra la Casa Bianca e il Congresso a sostegno del settore automobilistico americano. Ma Fiat ha anche beneficiato delle dichiarazioni dell'amministratore delegato Sergio Marchionne e del vicepresidente John Elkann, che nei giorni scorsi hanno sottolineato l'importanza di un consolidamento all'interno del settore auto per sfuggire alla crisi, e che per Fiat è necessaria un'aggregazione. E quindi, dopo le dichiarazioni di Marchionne e Elkann, si sono susseguite varie indiscrezioni sul partner ideale per Fiat, che però ovviamente non è ancora stato né comunicato né trovato. E per quanto riguarda Pirelli, anche Pirelli comunque ha beneficiato delle buone notizie provenienti dal settore auto, e infatti le aziende competitor hanno mostrato dei guadagni oggi, come Pirelli. Ora, tra i titoli più sottili va bene, è andata bene anche Tiscali per buona parte della seduta. Lì c'è stata la dichiarazione di BSkyB, che ha dichiarato che la parte britannica di Sky, che potrebbe prendere in esame l'acquisizione dell'unità britannica di Tiscali. Voci continue su Tiscali, sempre provenienti dalla Gran Bretagna, ormai da settimane. Che è successo a Alleanza Assicurazioni meno 1,5 e UbiBanca? Allora, meno 2,7. Ok, per entrambe, allora, gli operatori riferiscono di posizione visti i recenti guadagni. Allora, Alleanza ha guadagnato circa il 12,3% nelle due sedute precedenti, mentre il rialzo di Ubi è arrivato circa il 12% dai primi di dicembre. Allora, per quanto riguarda Ubi, il mercato aveva premiato il titolo perché per le caratteristiche maggiormente difensive come banca e per i migliori coefficienti patrimoniali. Per quanto riguarda Alleanza, in realtà oggi le prese di beneficio avevano colpito tutto il settore assicurativo, che però poi si è risollevato, e bisogna dire che oggi sono andate male anche AXA ed Exia a Parigi, mentre Swiss Re ha chiuso sulla parità. E ieri proprio Swiss Re, nel corso di una conference call, ha stimato perdite fino a 250 miliardi di dollari per gli assicuratori e riassicuratori internazionali. Allora, ancora sui titoli, devo dire che l'Espresso è un altro titolo che va male oggi, meno 2,4, Snam meno 1%, Atlantia meno 0,9, nel Monte dei Paschi meno 1,3%. Chi è andato bene invece, oltre a quelli già citati, chiarisco, sono Finmeccanica più 4,4%, Pirelli l'abbiamo detta, A2A più 7,5, Fastway più 4, e ancora Mondadori più 2,8, Fiat più 2,5, Intesa più 1,9, Enel più 1,8%, Tenaris più 1,7, Impregilo più 1,5 come Eni. Grazie a Livia Zancanelli di Radio Cori, Sole 24 Ore. Euro a quota 1,30,13, l'America guadagna adesso l'1,7%. Noi cambiamo tema, torniamo su un tema arcinoto, però insomma, quello dell'Alitalia. Proseguono gli incontri tra la CAI e Air France. sì, perché oggi i vertici della CAI hanno incontrato quelli di Air France KLM. Sempre sullo sfondo, la CAI deve dire entro fine anno quale sarà il partner straniero di Alitalia. Dicevo all'inizio, secondo quanto risulta a noi, ha molte più possibilità Air France di Lufthansa per un insieme di motivi: la penale che dovrebbe pagare l'Italia nei confronti di SkyTeam, il fatto che dovrebbe ridefinire tutti gli accordi di code sharing. Invece, per quello che riguarda il nodo Malpensa e anche la valenza politica di questo nodo, la soluzione potrebbe essere trovata con un rafforzamento di Lufthansa su Malpensa. Lufthansa non ha mai nascosto, già ha creato la società da parte italiana, di voler trasformare Malpensa in una specie di collettore di fideraggio, come si dice in gergo, cioè per approvvigionare e beverare gli aeroporti hub di Monaco, di Baviera e Francoforte. Partita intanto le prime lettere di cassa integrazione straordinaria a 0 ore per piloti e hostess all'Italia, dopo quelle inviate nei giorni scorsi al personale di terra. Pronte le lettere della CAI per 12.000 assunzioni. Riunione proficua e costruttiva, poco fa l'ho dichiarato il presidente di Air France KLM, Jean-Sacri Spinetta, uscendo dai vertici dell'incontro. E Marchionni, tra l'altro, che è il Didi Fondiera SAI, ma è uno dei soci della CAI, ha detto: insomma, mi aspetto passi in avanti dall'incontro di oggi con Air France. Intanto, quali saranno i voli garantiti dall'Italia da qua al 12 gennaio, data a cui si è spostata il passaggio, a cui si è spostato il passaggio di consegne? 356 voli al giorno, questo è l'operativo di Alitalia, lo ha chiarito oggi l'ENAC. Tra l'altro, la nuova Alitalia avrà come operativo iniziale 550 voli, considerando anche quelli di Air One. E l'ENAC ha rilevato un forte calo comunque dei passeggeri. Ti credo, insomma, all'Italia non si fida più nessuno a volare con gli scioperi bianchi, gli scioperi improvvisi. Il coefficiente di riempimento degli aerei giornaliero è crollato dal 75 al 40%. Lo ha ricordato, assieme ai piani e le garanzie sul piano natalizio di volo, il direttore generale dell'ENAC, Silvano Manera, al microfono del nostro Andrea Viali. Noi oggi abbiamo chiesto puntuale conferma a tutti i vettori italiani, a partire ovviamente dall'Italia, sulla garanzia che per i prossimi 30 giorni gli operativi dichiarati alla data odierna siano tutti tenuti in piedi. Vogliamo e abbiamo ottenuto rassicurazione in ordine alla regolarità dei voli, e insieme a questo noi vigiliamo con particolare attenzione, quindi con ispezioni quotidiane, sulla sicurezza degli stessi. Dobbiamo garantire soprattutto nel periodo natalizio quello che è una trasmigrazione familiare fra il nord e il sud Italia, quindi questa è stata la nostra, diciamo, più attenta richiesta in ordine ai servizi nazionali. Dall'Italia che risposte avete ricevuto? L'Italia ci ha confermato un piano su cui si è impegnata a confermarmi l'assoluta regolarità, ovvero il 100% di quello che ha promesso oggi si è impegnata a farlo, però nel contempo ha dato anche disponibilità a eventuali raddoppi di linee se emergesse, come tutti auspichiamo, una domanda superiore a quella che l'attuale è prevedibile. Al momento però la domanda di voli all'Italia è più bassa rispetto a quelle delle altre compagnie, anzi c'è una migrazione di passeggeri. Questo clima di incertezza, ne abbiamo più volte sottolineato, non fa certo bene a fiducia che i passeggeri, che i clienti danno nei confronti di questo o quell'altro vettore. Quindi oggi volevamo anche ottenere chiarezza di programmi da poter comunicare ai cittadini italiani che usufruiscono di questo mezzo di trasporto. Sicuramente è importante che l'ENAC chiarisca quali voli sono garantiti e quindi l'operatività dei voli. È preoccupante invece che l'Alitalia sia riuscita a mangiarsi 30 punti di coefficiente di riempimento degli aerei grazie a tutte le agitazioni. Immaginiamo che sulle rotte nazionali saranno facilmente recuperabili appena la situazione sarà più chiarita, sarà più chiara e più tranquilla. Non so se sarà così facile recuperarli sulle tratte internazionali. 18:10, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, il tema degli aiuti auto in America, 3 giorni che se ne discute, è arrivato il via libera oggi da parte del Congresso, 15 miliardi di dollari per General Motors e Chrysler, Ford sarebbe per ora esclusa perché non avrebbe bisogno nell'immediato, 8 miliardi per traghettare, far sopravvivere General Motors, 7 miliardi a Chrysler, alla Chrysler. Le case di Detroit, ossia anche la Ford, avevano chiesto in tutto 34 miliardi. Ma la cosa che ci sembra più interessante è, tra l'altro, sono tutte queste condizioni molto rigide per utilizzare i soldi pubblici. In America non si scherza con i soldi pubblici. E la figura di questo zar dell'auto, che dovrebbe controllare tutta la ristrutturazione in corso, vedere come questi soldi vengono utilizzati, bloccare questi soldi qualora le case automobilistiche non li utilizzassero correttamente. Si fa il nome di Paul Volcker, che è il consulente economico di Obama, ex presidente della Federal Reserve, con il dubbio che il Senato possa invece bloccare questa via libera al piano. Mario Platero, elementi sufficienti per te, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, beh, direi che hai dato una brillante sintesi della situazione in cui ci troviamo. In effetti ci sarà uno zar dell'auto, un grande supervisore. Questo preoccupa molto il mercato, perché in generale diciamo un intervento dello Stato in termini di aiuti va bene, ma quando l'intervento diventa poi per la gestione delle operazioni va meno bene, il track record delle operazioni diciamo aziendali gestite dallo Stato non sono molto buone in generale, e neppure qua in America. Quindi c'è sicuramente questo elemento. Sì, si è fatto il nome di Paul Volcker, ma Paul Volcker per ora resiste. Lui non vuole, diciamo così, assumersi delle responsabilità operative a tutti gli effetti. Ha rinunciato, per esempio, a traghettare il dipartimento al tesoro per Geithner, proprio perché non voleva, così, insomma, un uomo di 81 anni, quindi non voleva. È il padre putativo di tutti gli economisti di Barack Obama, no, Volcker? Beh, direi. Volcker è un uomo di straordinaria statura, perché è quello che ha rimesso a posto l'America sul piano dell'inflazione, è rimasto così il grande saggio che è intervenuto ogni qualvolta c'è stato bisogno di spegnere qualche fuocherello o grande fuoco, grande incendio. Per esempio, quando ci furono gli scandali contabili, lui fu a capo di quella commissione, fu a capo della commissione Oil for Food. Non è propriamente, diciamo così, un economista professore, è un economista che ha fatto la sua carriera nell'ambito delle strutture statali, quindi rappresenta dal punto di vista dell'immagine. Sì, è vero, ha lavorato anche un po' per la Wolfenson, quindi ha lavorato un po' nel settore privato, però si è sempre tenuto, diciamo, fuori. Non ha fatto quello che ha fatto Bob Rubin, che è andato ad assumere un ruolo di primissimo piano a Citigroup. Quindi resta, fra virgolette, un puro, un uomo per tutte le stagioni, e quindi un punto di riferimento un po' per tutti, su cui ci si trova d'accordo. Ecco, fu anche quello che osò criticare Greenspan, quando Greenspan andava un po' troppo in là con l'agevolazione monetaria, e fu criticato, qualcuno gli disse tu sei geloso e così via. Dunque Volcker, ecco, è la persona ideale per farlo, non so se lo farà. Allora, ancora una domanda, Mario Platero. A me quello che ha impressionato di questo piano, vedremo poi cosa succederà al Senato, se i repubblicani faranno uno sgambetto oppure no, è la severità. Dicevamo prima, non è che in America i soldi si possono dare statali così, nel senso che intanto questi soldi vengono tolti da un fondo per il risparmio, da un programma per il risparmio energetico, verranno erogati come prestiti al 5% per 5 anni e al 9% per altri 2 anni, prestiti diciamo con un tasso abbastanza alto, ma soprattutto le condizioni per utilizzare questi 15 miliardi sono: tetto ai compensi dei manager, non potranno guadagnare più di una certa cifra, non potranno usare jet privati, nessun dividendo verrà distribuito agli azionisti, perché si dice se le sei messo male non puoi distribuirti gli utili, la partecipazione nazionale del 20% allo Stato, l'impegno di rinunciare a sporgere denuncia contro eventuali leggi statali sull'effetto serra. Insomma, è un commissariamento più che un aiuto. Se ci aggiungiamo anche lo ZA dell'auto che va a vedere come utilizzi questi soldi, casomai te li blocca, Mario. Direi regole e limiti imposti a tutti. Se chiunque dà un prestito vuole delle garanzie, in questo caso è l'opinione pubblica che vuole delle garanzie. Guarda, ti racconto una storia divertente. Il New York Post questa mattina ha pubblicato una finta pubblicità in cui si vede una macchina generica e con tutti e tre i marchi di GM, Chrysler e Ford, e la didascalia dice: non volevate comprare le nostre macchine schifose? Bene, vi prendiamo lo stesso i vostri soldi. Il bailout è arrivato. E poi tutta un'altra didascalia che dice: probabilmente credevate di essere furbi a comprare le auto straniere di qualità superiore alla nostra, che consumano meno benzina e che hanno un valore così di rivendita superiore, e forse anche pensavate che anni di perdite di mercato ci avrebbero insegnato a gestire meglio le nostre case automobilistiche. Ebbene, non è vero, noi abbiamo il segreto, abbiamo i lobbisti a Washington e con loro ci pigliamo i soldi di cui abbiamo bisogno e quindi ce li pagate lo stesso. Questo per darti un'idea, sono sotto attacco feroce tutte e tre, sotto attacco feroce Washington. Qui non stiamo parlando di una crisi sistemica, stiamo parlando di prodotti che non funzionano, e quindi c'è preoccupazione, e quindi per questo si tende a incoraggiare. Barack Obama, immaginiamo, non possa iniziare il suo mandato venendo tacciato, lui che è l'uomo del nuovo corso, di essere così sensibile alle lobby, alle potenti lobby di Detroit, e deve dare anche il segnale che questi aiuti vengono dati per i 3 milioni di disoccupati che verrebbero creati, non per in qualche modo così salvare manager incapaci, gestioni incapaci, prodotti non competitivi e quant'altro. Grazie Mario Platero. Allora, adesso parliamo della produzione industriale. Vedo molti messaggi sugli aiuti, sul modo in cui gli americani sono così attenti nel concedere gli aiuti di Stato. Molti di voi fanno l'esempio negativo invece con quello che fa il nostro paese con l'Italia. E alcuni uniscono anche la notizia oggi di Ricucci condannato, ma non sconterà giorni di carcere per l'indulto, con quello che invece capita in America quando viene condannato per reati di carattere finanziario. E lo so, sono due paesi diversi. Io penso che i paesi europei, in primo luogo l'Italia, debbano prendere lezione dall'America, che quando concede un soldo, un dollaro dei contribuenti, poi di fatto quasi commissaria a questi giganti automobilistici. Veniamo o torniamo sul tema di apertura, perché non sarà, da quello che abbiamo capito, brutto solo il dato di ottobre sulla produzione industriale. Eh sì, ci abbiamo aperto con questo dato, l'abbiamo commentato assieme a quello sul PIL con due economisti, Rullani e Bertelè, che invitavano a dire: vabbè, anche dalle crisi poi si rinasce, ci possono essere occasioni, la capacità di leggere, di rimettersi in discussione genera anche energia positiva, nel frattempo occorre anche resistere. Il tutto in un giorno in cui perfino in Cina, per la prima volta dopo 7 anni, cala l'export, meno 2% contro un tasso di crescita previsto del 15%, e per la prima volta 3 milioni di ex contadini inurbati tornano dalle città alle campagne per restarci, perché si perdono posti di lavoro anche in Cina. 70.000 aziende fallite nei primi 6 mesi del 2008. Sento che c'è un volatile che sta per prendere il volo, ma soprattutto sentiamo che è il nostro gufo, ma sentiamo qual è la previsione di Confindustria per la produzione industriale nel mese di novembre. Ricordo che oggi il dato su ottobre, quindi il dato vecchio, ha segnato un meno 7,4% fu nel 96, meno 6,9% è stato questo ottobre, e quindi è il peggior dato dal dicembre del 96. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, buonasera. Buonasera a tutti. So che stai per dirmi che forse a novembre battiamo anche il record del 96? Nel senso che non so più dove prenderla questa crisi. Cioè, ho capito come la prendiamo noi, ma non so più come prenderla, come affrontarla. Cioè, avete diffuso una stima che dice in sostanza che a novembre come andrà la produzione industriale italiana? Beh, abbiamo abbiamo una flessione mensile ulteriore dell'1,8% dopo l'1,2 di ottobre, dopo il -2,6 di settembre. D'altronde ricordiamoci che andamenti analoghi, anzi più pesanti, osserviamo in Germania o in Francia, dove negli ultimi bimestre, cioè settembre-ottobre, ci sono state contrazioni del 4,4 in Francia, del 5,4 in Germania complessivo, da noi è stato del 3,8. Non è un dato che ci sorprende, considerato l'andamento della fiducia e l'ISAE ha stimato un livello di produzione più basso, appunto a novembre, sulla base delle indagini presso le imprese manifatturiere, l'indicatore dell'output, cioè della produzione, che è inserito nell'inchiesta presso i responsabili di acquisti, a novembre ancora più basso che a ottobre, quindi ci aspettiamo una contrazione più forte e questo ci sembra abbastanza inevitabile. Siamo effettivamente nel momento più buio della crisi e quindi tutto quanto converge in questa direzione, anche se ci sono alcuni segnali di consumo che tiene sostanzialmente. Allora, siamo nel momento più buio dell'anno dal punto di vista della luce e anche, speriamo, nel momento più buio della crisi. Ho capito bene, voi prevedete che a novembre il raffronto rispetto al novembre del 2007 segnerà un -11%? Sì, quello è dato grezzo, teniamo conto sempre poi del problema delle giornate lavorative, quest'anno ce n'è uno in meno, quindi se guardiamo a parità di giornate fa -5,2, ottobre a parità di giornate a -6,9. Quindi per cui ottobre sei sempre in linea. Ecco, tu dicevi che qualche segnale arriva, ora uno a mio avviso non deve essere ottimista per forza perché glielo chiedono, però non deve neanche sempre essere e nemmeno sempre essere negativo. Noi abbiamo notato che per esempio i dati sull'export qualche segnale ancora buono lo danno, vedremo poi, perché se frenano così anche gli altri paesi sarà dura. Tu ti riferivi ai consumi, se mi tiene insieme il commento mi fai un favore, grazie. Sì, i dati ISA di PIL di oggi danno sostanzialmente una tenuta, cioè più 0,1 della dinamica dei consumi delle famiglie nel terzo trimestre rispetto al secondo. Ci sono alcune indicazioni aneddotiche che citiamo nel nostro comunicato riguardo l'andamento delle spese delle famiglie a dicembre, riguardo una spesa che è selettiva, se vogliamo. Banalmente le prenotazioni degli alberghi oppure anche le spese in certi beni tecnologici, questo vuol dire appunto che la crisi è selettiva e d'altronde è abbastanza normale. Parliamo di una contrazione del PIL che probabilmente nel quarto trimestre sarà dello 0,8% sul terzo e quindi ci sono settori più colpiti, e pensiamo appunto all'auto, agli elettrodomestici, cioè tutto ciò che comporta spese costose e rinviabili per le famiglie, e viceversa forse si cerca anche di consolarsi con qualcosa che costa di meno, e questo fa sì che appunto il PIL scenda dello 0,8, altrimenti avremo contrazioni molto più elevate. Se vogliamo guardare il lato positivo, la discesa robusta, rapida dell'inflazione, andremo verso un 1% a metà dell'anno prossimo, questo significa maggior potere d'acquisto per le famiglie e dunque possibilità di rilanciare la spesa. La chiave di volta di tutto è la fiducia, se non torna quella è difficile cogliere le occasioni. Sì, d'accordissimo con te, vorrei chiudere con la domanda fatta all'inizio agli altri ospiti: ma quando la crisi morde così tanto, che in America ieri si è preferito comprare delle obbligazioni Treasury Bond a rendimento zero e per alcuni minuti anche sotto zero pur di non mettere i soldi da altre parti, mai vista una cosa del genere, quando la Cina vede tornare, lo dico con un po' di colore, ma insomma 3 milioni di cinesi dalla città alla campagna, e vede calare per la prima volta -2% le esportazioni, ha veramente senso dire che cosa bisogna fare, o non si deve in realtà solo abbassarsi, fare passare l'ondata, fare come il giunco di siciliana memoria? Dal punto di vista del comportamento del singolo sicuramente questo è razionale ed è quello che tutti stanno facendo, perché si evita di mettere a repentaglio la ricchezza acquisita o la prosperità dell'azienda, la possibilità di sopravvivere al passaggio dell'onda, a parte il fatto che comunque è anche vero che a livello di singole imprese o di singole famiglie osserviamo situazioni molto differenziate, girando per l'associazione degli imprenditori in questi ultimi due mesi e osservo appunto situazioni molto difficili a situazioni addirittura in crescita, quindi come dicevo prima la recessione è selettiva. Poi dopodiché è un problema evidentemente di guardare lungo e sapere che la crisi in ogni caso passa e chi meglio dei governi può in questa fase guardare lungo e quindi creare un ponte fra la situazione di oggi che è negativa e di vuoto di domanda aggregato e la situazione di domani dove quelle opportunità di cui parlavo prima sì. E a cui si aggiungono anche le riduzioni dei tassi di interesse per quanto riguarda noi di Eurolandia un euro meno forte. E poi comunque alcune misure di rilancio da parte dei governi già sono state varate e scatteranno dall'inizio dell'anno prossimo. Per cui tenere duro nel momento, come tu hai detto inizialmente, anche più brutto. Vedo che ne parleremo domani, adesso dobbiamo veramente chiudere, molti scrivono, ma insomma stiamo cercando degli alberghi per le vacanze, sono tutto pieno, non c'è una camera libera, neanche 4 stelle. Ne parleremo perché è una domanda che arriva spesso, ma non vuol dire nulla rispetto alle condizioni complessive del paese. Grazie al direttore del Centro Studi Confindustria Luca Paolazzi, da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.